ci scommetto che mi basterebbe un dito per mandarti steso a terra se ti troverò stordito. Vuoi tanto la guerra, ma sei il primo che diserta, e questa ti ritera, e per dirti che stasera sono io che mi cazzo e spaccio rime del cazzo, molto attento allo stile, ma strapalo a casaccio. Perché te le sogni le scopate che faccio, perché con il nuovo stile americano che piaccio. Su, fatti coraggio, racconta il vero, cerca almeno di far trasparire un messaggio che sia buono. Scendi dal trono, bello, guarda me, non mi vergogno di mostrare chi sono. Faccio come te, anch'io so chiudere le rime. Canto come te, anch'io so chiudere le rime. Quanta gente c'è, anch'io so chiudere le rime. Che parlano, parlano, anch'io so chiudere le rime. Faccio come te, anch'io so chiudere le rime. Canto come te, gente c'è, anch'io so chiudere le rime. E parlano, parlano, anch'io so chiudere le rime. Adesso ascoltami, ho 100 chiodi conficcati nel cervello ed è un macello, non riesco a ragionare con l'uccello. Vanno male e vivo con l'intento di sfogare, non come al confessionale del grande fratello in cella. Mi sento in cella come un condannato a morte, anche se fortunato non riesco a ringraziare la sorte. Questa mia età forma mostri tra le righe, soldati spenti che marciano dritti verso soldi e fighe. Io quando canto non mi vanto di ferite mai subite, non uso armi da fuoco, sono calma e dinamite, e sono pure stanco di sto sangue che mi uccide. Destino solitario, non mi spaccio da sicario, trafficante a milionario, quando in fondo non è vero. Nel mio armadio sono scheletri affollati e accatastati, e ho paura che non restino impalati. Faccio forza sulle ante perché spingono incazzati, ed evito la gente, quegli sguardi interessati. C'è niente da vedere nei miei occhi avvelenati, sono solo un altro eroe tra i condannati, un malato tra i malati, un sogno perché ho gli occhi spalancati. Voi mi fate 20 tracce di odio puro, di insulti e di minacce, ma lo fate con le facce verso il muro. Faccio come te, anch'io so chiudere le rime. Canto come te, anch'io so chiudere le rime. Quanta gente c'è, anch'io so chiudere le rime.